tantissime anni fa, ero giovane, io ero ragazzo, si lamentavano che la gente non stava mettendo più soldi dentro le cassettine. E cos'era? L'avevo visto io con i miei occhi, questo è un frate, passava e si ritirava i soldi, però l'altro, quello che comandava, il frate superiore, quello lì si lamentava che la gente non stava mettendo più offerte, per forza, perché c'era il ladro in chiesa che si portava via i soldi di nascosto. Ecco qual è il discorso. Tu mi dirai, ma questo non è detto che sono tutti così. No, non dico che sono tutti così, però ti posso garantire che c'è una grossissima fetta di persone disoneste, ripeto, che stanno rovinando la Chiesa. La Chiesa non si deve toccare nella maniera più assoluta, intanto perché è di un valore inestimabile, e allo stesso tempo ci sono i santi che non puoi assolutamente toccare, che sono al di sopra di tutto. Vai, e di tutti soprattutto. Vai, Gianfra. Sì. Guarda, io mi posso definire, non dico neutrale perché comunque sono un cristiano, però sono anche un cristiano asino, cosiddetto, no? Quindi faccio parte di quella categoria di credenti che sono un po' così così, ecco, non mi faranno mai santo sicuramente, ecco, perché non lo sono e non lo sarò mai, penso. Quindi capisco queste cose che sta dicendo, però capisco anche che queste sono cose del mondo. Ti ho detto già prima, guarda, se tu sicuramente, se tu avresti la possibilità di andare, che ne so, al Polo Nord, anche di lì troverai qualcuno che sicuramente fa delle magagne e disonesto, perché è nell'animo umano certe cose, se no se fossimo tutti buoni, dal primo all'ultimo, che bisogno ci sarebbe, o che bisogno avrebbe avuto Gesù Cristo di venire in mezzo agli uomini per farsi crocifiggere? Non avrebbe avuto senso, eravamo tutti buoni e cioè stavamo buoni, però così non è. Così non è, se il fratello ammazza il fratello, il figlio ammazza il padre ammazza il figlio, la moglie uccide il marito e anche viceversa soprattutto. È il male che c'è dappertutto, se noi non ci rendiamo conto che il male c'è dappertutto, soprattutto anche in mezzo alla nostra società, in mezzo alle persone. Se non lo ripudiamo, perché quello è il problema, se non lo ripudiamo, no, non se ne esce, capito? È un po' come succede con questo, con molta gente sui, che ne so, sul Covid, sulle infezioni, sulle malattie, che giusto per essere, dice, non esiste, non c'è, non, sono tutte bugie, sono complotti. Quella non è la verità, capito? L'uomo non è che le piaccia tanto sentire la verità, perché la verità fa male, è come una spada che li trafigge, però la verità purtroppo va detta. E indubbiamente, ripeto, c'è molta disonestà, però fa parte del genere umano, non c'è niente da fare, capito? Quindi c'è il cattivo, c'è il meno cattivo, c'è il cattivello, c'è il criminale vero e proprio. Giulio, viviamo purtroppo in un contesto umano, perché l'umano è così. Ecco, appunto, il discorso che hai fatto adesso, praticamente stai dicendo quello che ho detto io, né più né meno. E con tutto questo non è detto che... perché dobbiamo essere benevoli con le persone, che non possiamo parlare di certi atteggiamenti di queste persone così disoneste nella maniera più assoluta. E caspita, se tu li lasci ballare, quelli ballano all'infinito. Se invece li riprendi, magari qualcuno si raddrizza anche e non commette più gli errori che magari ha commesso in precedenza. Ecco, quello. Poi è chiaro, lo sappiamo benissimo, nel mondo non sono tutti delinquenti, no? Tu non sei delinquente, io non sono delinquente e tantissime persone che conosco non sono delinquenti, anzi la maggior parte delle persone che conosco sono tutte persone come si deve, tutte persone serie, perché, anche perché io il delinquente non lo voglio conoscere. Ecco, io parto da questo principio: il delinquente deve essere messo in disparte, quello vuole raddrizzato, e se non lo raddrizziamo noi i buoni, quello farà sempre peggio. Ecco qual è il discorso, e non per questo non ne dobbiamo parlare, anzi ne dobbiamo parlare e sottolinearlo continuamente, perché certe cose non si devono fare nella vita. Nella vita si deve vivere onesti, tranquilli e soprattutto passare sempre da qualsiasi parte a faccia alta. Invece no, c'è gente che passa a faccia altissima e fanno del male infinito, sempre, tutti i giorni. È una vergogna, guarda. Per cui, anche se sappiamo benissimo che non sono tutti così, però questo non significa che non dobbiamo parlare, o Gianfra, assolutamente no. No, guarda, forse hai frainteso. Io ti posso fare una citazione di Sandro Pertini, che a chi faceva ragionamenti nel senso ma quello ha detto, ma quello sta dicendo, diceva a tutti, guardate, l'ha fatto durante un discorso di Natale in cui c'erano forti polemiche, e io ero giovane, ero ragazzino, però le seguivo queste cose, e Sandro Pertini ha detto, guarda, io non condivido, non posso condividere assolutamente quello che dicono certe persone, però sono pronto a morire perché queste persone abbiano la possibilità di dirlo, e questo è un valore di democrazia notevole, anzi basilare, perché la libertà di parola deve essere di tutti in una democrazia. Quindi io non ti sto dicendo che certe cose non vanno dette, sto dicendo che certe persone non vanno accusate senza prove, non vanno condannate senza prove, e purtroppo lo vediamo tutti i giorni, e sappiamo di tante persone, di tante famiglie intere che sono camorriste e mafiose, però in una democrazia, e questo può anche far costare il naso a molti, però in una democrazia non si può condannare se non si hanno prove. E spesso, diciamo, per una serie di cause si condanna anche l'innocente, che magari non sa o non ha possibilità di difendersi, e questi se la scampano. E purtroppo è così, è sempre lo stesso discorso, Giulio. Capito? Quindi le cose vanno dette, però sempre stando attenti a non poi fare la calunnia. Figurati lo stato d'animo di quel vescovo che l'hanno accusato di reati proprio bruttissimi, tipo la pedofilia, cosa ha provato come vergogna, sapendo che era innocente. E questo è capitato a molti, anche molti che sono finiti in carcere innocenti per diverse cause. Quindi il giudizio spesso dovrebbe essere dato, anzi quasi sempre, da chi è in grado di darlo. E poi, insomma, sai com'è, purtroppo non sempre le cose vanno come noi vogliamo, ecco, questo fa parte della vita. Beh, indubbiamente, ma sono d'accordissimo che uno deve essere condannato per essere colpevole, certo, però sappiamo benissimo che ci sono tanta gente che è stata condannata, o meglio premiata, secondo il reato che ha fatto, la pena che gli hanno dato non era certamente quella adeguata, perché tu, se ammazzi una persona, non puoi pretendere di avere 8 anni di carcere, come anche ultimamente è stato dato a una persona, 8 anni di carcere, eccetera. Ma vuoi scherzare? Ma te ne rendi conto? Quando sono a prendere e buttare le chiavi in mare, arrestare e buttare le chiavi in mare, non dargli solamente 8 anni di carcere. Oppure quello che ammazza il figlio, o un bambinetto, o un neonato quasi, tipo quella donna di Cogna, ad esempio, ne aveva lavorato 13 anni, e in tutto ne ha fatto se no 8 anni, qualcosa del genere, tra premi eccetera, e aveva ammazzato il figlio. E di questi fatti noi ne sentiamo tutti i santissimi giorni, ne sentiamo, no? Non è possibile. Oppure quello che passa per strada così e butta dell'acido in faccia alla gente e distrugge il viso di una persona e magari le danno 3-4 anni di carcere, e intanto tu hai rovinato a vita una persona. E queste secondo te cosa sono? Condanne? Queste non sono condanne. Quella gente lì vuole eliminata nel senso non ammazzata, io non sono per la pena di morte, no, ma vuole eliminata dalla circolazione, quelli devono marcire in galera, perché non è possibile che si possa accettare certi atteggiamenti da certe persone. Dice, ma è impazzito? Me ne frego, è impazzito, oppure quello che passa in giro col picco e colpisce col picco in testa alla gente. E questi sono tutti fatti recenti, mi ho già fatto, e ce ne sono a milioni, tutti tantissimi giorni. Perciò vedi bene che poi è chiaro che prima bisogna fare un processo e bisogna condannarli. Fin quando non li condanni non sono colpevoli. Ma se uno ha già ammazzato, sappiamo benissimo che ha ammazzato e ancora non gli hanno fatto il processo, tu cosa gli vuoi dire? Che non è colpevole? E quello è un delinquente, basta, no? E il discorso è questo, Giafra. Sì, però io sono convinto che le sentenze devono essere fatte dai giudici e non dalla folla, perché se nel caso dovesse essere fatto dalla folla, quello non si chiamerebbe più un processo, ma si chiamerebbe un linciaggio, come capitava nel West, che ti mettevano la corda al collo e poi si accorgevano magari dopo che stavano appeso e ucciso. Ops, non era lui, quella è vendetta, quella si chiama vendetta, mentre in ogni caso ci deve essere sempre la giustizia, e la pena deve essere inflitta ai giudici. Poi se questi giudici la pena non la sanno dare, evidentemente c'è qualcosa che non funziona, e quindi di lì in qualche modo è la politica e chi noi, ripeto, chi noi mandiamo a fare le leggi, che deve essere capace di fare delle leggi che funzionino, cosa che nel nostro paese onestamente non è proprio così. Quindi, come vedi, torniamo sempre a bomba, capito? Se la gente non si rende conto di chi sceglie per come rappresentanti, non può poi lamentarsi dicendo, ma guarda quello, ha fatto 10 anni di evasione fiscale, ha rubato a destra e a sinistra e noi pagando tutti i giorni le tasse e non ne hanno fatto niente. Poi va a vedere, ma scusa, tu lo puoi fare la data, e magari la data proprio a quello che di queste cose ci sguazzava. Tutto lì, Giulio, capito? Beh, abbiamo fatto una mezza tribuna politica e io non mi sono accorto che sono 19.36.42, anzi 43, e quindi è l'ora anche di andare a fare il rifornimento. Quindi Giulio, ti saluto per il momento e ti auguro la buona giornata, e comunque poi ci guardiamo il telegiornale tutti a sapere di che morte dobbiamo morire. Ok, ciao Giafra, ci sentiamo allora. Beh, purtroppo noi abbiamo chiacchierato, abbiamo sollevato cose esistenti, fatti esistenti, per cui non c'è da meravigliarsi più di tanto, perché ripeto, tutti i santissimi giorni ne sentiamo. Oggi quando tu accendi la televisione, ascolti i notiziari, non si parla d'altro che di malefatte, ma di malefatte in tutti i sensi. Raramente si parla di qualcosa di bello, di positivo. Di solito sono sempre notizie negative, purtroppo è così. va bene, dai Gianfra, ci sentiamo, grazie per la chiacchierata, buona cena e ci sentiamo prossimamente. Ascolto il finalino e dopo anch'io cambio zona qui a casa, scendo dalla parte bassa. Ciao Gianfra, arrivederci. Sì, ok Giulio, volevo concludere comunque con una nota di speranza, non di speranza al ministro, di speranza nel senso della speranza che un esimio deve avere. Guarda che comunque, per quanto diciamo queste corna del nostro paese, il nostro paese in Europa ha dei record anche molto positivi, tra cui quello che nonostante ci sia una certa delinquenza organizzata che sta prendendo tantissimi colpi, perché la stanno combattendo molto bene, siamo il paese in cui ci sono meno omicidi, ci sono meno rapine anche rispetto a tutti gli altri stati, quindi i delitti sono in costante calo, quindi forse dovremmo guardare con più serenità a certe cose e rimediare a quelle che obiettivamente non vanno tanto bene, perché in molti paesi stanno peggio di noi, ecco. Non parliamo, perché non è neanche il caso degli Stati Uniti, anche se sono 280 credo milioni di persone, però se vai a fare la statistica ogni minuto di lì c'è un omicidio, ti sparano per uno niente. Però noi dobbiamo guardare in casa nostra e dobbiamo essere anche coscienti che sotto quel punto di vista della sicurezza e della tranquillità siamo messi abbastanza bene. E poi ovviamente gli omicidi, anche qualcuno omicidio capita anche da noi, c'è poco da fare. Bene Giulio, buona cena, alle prossime. Ok, ciao Gianfra, ciao. Avremo modo di parlare ancora di questi fatti e fattacci. Ok, ciao ciao Gianfra. Ciao anche Claudio, se l'ascolto, buona serata, buona cena. Ciao Claudio, se siamo con l'ascolto, ci sentiamo, ciao. Andiamo, chiedete. Beh, altri ci danno gli occhi. Cosa c'hai a voci? Cosa c'hai a voci? Ehi, acca! A che dopo ne sono gli occhi? Ehi, già c'era gente, mia moglie a parlare. No, io c'avevo gente, va. Aspetta un attimino. C'è arrivata mia figlia, un secondo. Ok, ah. Oh, iaia, è 15. E quindi, appena rientrato dal lavoro, Io sono Giovanni da Giobossa. Ah, in Chivi. Sono appena rientrato dal lavoro. E tra poco arrivi la pizza che non vabbè muoveva, quindi tanto vale. Ma spero se commento, aspetta. C'è mia moglie, come te la comanda? Oi, da Caridai. Non esisce in di più. Un cacciatore, non ce la fa a camminare. No, ancora non sto facendo la terapia a casa. Ehi, capo, ma si deve provare appena, cioè, provare così, mi ha fatto anche prova. Io lo so, c'erano 20 punti, mi segnano tutti. Ho tutto il buio adesso. Piano piano, non è formale, ancora è formale. Lo so che fa male. Vivo, come te li dite? Vivo piano piano, la riabilitazione, è un casino. Non so che sia finito, metto la pomata, così, la ritiro. Scappa. Dai, ci sentiamo dopo che mi è arrivata la pizza. Ehi, altro, vado, non ti preoccupare. Oh, sentiamo dopo. Sì, sì, sì, ciao. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno, K! Hola, attenzione 10, c'è qualcuno? Attenzione, c'è qualcuno, K! Buonasera. È stato nessuno mai. Vabbè, io purtroppo non ho avuto tempo. Ma oggi è una giornata un po' particolare. Perché? Perché se, da quando sono venuto non c'è nessuno. Vedevo dire. Se ti facendo l'amore stanno. Non è acceso giù da Marina oggi? Tra una cosa e l'altra sono arrivato tardi, poi ci siamo messi un po' nel divano, poi abbiamo cenato, ci siamo messi nel divano, ci siamo addormentati. A Paletto ti accorcende? No, ha suonato, no, è l'internazionale, aspetta. Ah, cavolo, sai quello che mi stava dando fastidio, cazzo? A un certo punto... di un certo coso ho pensato che era Paoletto, era. Va via, chissà molto strana, va via. E l'altro seguito come sono spostato, ripeti? Addirittù, che paria! Cioè, come ti va via la bozza, chi su da rimane che la rompendo di cattoli? Cazzo paria Paoletto, paria. Ma dove? Qua, quando sovramodulato, quello che stava rompendo le scatole. Sembrava tipo Paoletto, sembrava. Maria Falcone, Maria. C'aveva la stessa voce tipo imbriaga come ti fa vedere Edo. Ah, boh. Dica che gli sta caffè sciuccato, non che mi arriviamo per forti, eh. Dove fatto qua, che carità. Lui ha detto, ce non ne ha finito, era ciappo, lì non ce ne ha finita. E roba è qua, era perché... cioè, dagli altri arrivava... molto meno di come arrivassi a me. Altro da 10 minuti che mi devo cambiare le lenzuola, guarda, ma dipendo... sono qua comunque, aspetta. Chiappa. Ma non si va bene il Cagliari. Cosa ha fatto il Cagliari? Sta giocando, c'è Atalanta a Cagliari, Coppa Italia, ogni giorno ce n'è una. L'Inter ha giocato ieri, non c'è l'Inter, è supplementare, ha vinto, e l'altra, il Napoli ha vinto supplementare, la Juve ha vinto supplementare, e sono partite un bel lungo, un bel torte, capito? Comunque, l'importante è che hanno vinto tutte le grandi, Milan, Inter, Juventus, Napoli. Adesso vediamo cosa fa il Cagliari, pensiamo fuori anche dalla Coppa Italia, sono scontri diretti, capito? Se per dire fai 0-0, continui a giocare fino a quando una delle due segna. Vediamo se vedo avanti, contro chi era? Era uno squadrone contro l'Atalanta, sta facendo la testa a cacco, al primo le stanno dando, al Rai 1, capito? E questo è il Rai 2. Della prima squadra, della seconda squadra sono ragazzini, capito? sempre. S'ha mangiato un cacco, s'ha mangiato. Allora ha fatto un gol di testa, cacco. Oh, bravo, grande, grande centravanti. Non ho giocato tutti bene, già ho visto i replay, però hanno vinto tutti ai tempi supplementari, tutti. Addirittura l'Inter all'ultimo minuto dei tempi supplementari. 150 minuti mi devi giocare, 150 minuti, non 90 minuti, no. 150 minuti hanno giocato tutti, anche la Juve, l'Inter, il Napoli, la Fiorentina, tutti ai tempi supplementari i sorvincenti. Adesso vogliamo questo, se finisce al 90esimo con una squadra in vantaggio, oppure se vanno ai supplementari, se non passi ai supplementari, devi andare ai rigori, capito? Perché sono scontri diretti. O si vince o si perde. Per forza devi andare ai rigori, sì. Se nessuno delle due segna, deve per forza andare ai rigori, se no non andava. Ma chi si conferma, chi si conferma? Ma chi c'era? Anche Pedivella? Era Pendiruletto. Pendiruletto, dice lei. Attento, non ti bruciata la branda. Questa che ha detto che aveva la lenzuola, Pedivella. Ragazzi, dice lei, Loretto. Che stamattina avevo avuto tempo, vai qua, vai là, e adesso mi sto cambiando la lenzuola, cara. Non vive con i sacchizzoni, vanni. Mi nomi a moglie, mi esce questo. Non hai fatto il gol a Canante, forte. Siamo sardi, stanno facendo il torneo, perciò tutti i ragazzini che stanno giocando. Non vuoi chiudere un guaglio della prima squadra, tutti così vanno a fare in Coppa Italia, almeno riposano. Ronaldo rimane entrato con la mancavano 10 minuti dal secondo tempo supplementare, anche Lukaku è entrato 8 minuti, mancavano 10 minuti, ma come l'ha segnato? Però attenzione, cioè, qui ci sono ragazzini che non giocano quasi mai, però potrebbe esserci un Giulli che magari qualche ragazzino, escludimi puro, che non è stato ancora scoperto. La Juve viene il buco, gli dico, ma la Juve è giocando, viene il buco nome strani, ha segnato un ragazzino di 18 anni della primavera della Juventus, perché poi l'allenatore convoca anche quelli della primavera, capito? In Coppa Italia fanno giocare così, c'era Buffon in porta, e ha segnato uno della primavera. Poi uno Moratta e l'altro con il cagato, anche io, quanti chiama, come un fresco. Che è con il cagato? E allora, ma segnato Eddo, Moratta, no, così, gol in contropiede, e poi da un tiro da fermo ha segnato questo ragazzino, non so manco come si chiama, non l'ho mai visto. Ragazzini, non sai com'è, se si mettono in mostra si mettono, perché hanno voglia di giocare, hanno voglia di mettersi in mostra. Sono molte volte sono più pericolosi di quelli titolari. Allora, così è. Capo del Rosmetro. Aspetta un attimo. Ehi. Capo del Roggio. Eia, sei pure cagato. Guarda che ci è andato a rubare l'aria, Dulu. L'hai visto Mario entrando? Ha fatto andare di 2 e il tren di Edu. Quando è ieri? Perché oggi non ce ne avevo lezione. Non l'hai visto Mario, ragazzo? Non ci ho fatto caso, la verità. Perché ti ho visto lui. Vabbè. A prendermi il Jui Seng, sono passato e mi sono fermato. Ehi, ma aspetta, non lo via tu, ero dando Mario, perché vi siete incrociati, ma è tu l'aria per l'altro. sino alle 18. Quindi dovrebbero essere aperti anche sabato e domenica, almeno se sono aperti sabato e domenica. Non ha fatto la domenica, tutto già rapido sabato e domenica, baccare il bello schifo. Allora, c'era che sono passato anche l'altro giorno e c'era quell'altra ragazza, quella giovane. L'altro giorno ancora c'era il giovane c'era, c'è colleghi di Ilaria. No, già mi fa piacere, tanto sto passando lì e me lo bisogno in chive. Quella c'ha 21 anni c'ha, e lui lo stesso. E tu due 21enni so, Carlotta e Simone. Il più grande è Enzo, e poi c'è Ilaria. Ilaria ne ha 33-34, non fa. Enzo ne ha 40, mi sembra, 38, se mi ricordo. Vabbè, comunque. Quindi più giovani, quando vai ci sono quei due giovani, sono due fidanzatini al stesso. Carlotta e Simone. Lo immaginavo, perché una volta li ho visti insieme, li ho visti. Cazzo, sarà lì da rovare, mamma mia. Cioè, vedi questi ragazzini, che vogliono lavorare, poverini, cioè li fai con la chiusura, li rovine. Oggi ti insegnava la parola. Muglio, questi nuovi giù. Maledetto, che. Questi nuovi giù. Maledetto, che. Cazzo, segna a Duane. Alleluia. Speriamo che speriamo che almeno riescano ancora a lavorare tra un sabato e domenica, dai. Sì, se lavorano sabato e domenica, sabato tutto il giorno fino alle 6. Domenica no, domenica apre solo di mattina, mi sembra debba aprire l'aria. Se li fanno lavorare, anche sino all'ora dell'aperitivo, le 2, 2:30. Poi chiude. Basta, la becca mi fa risì. Vabbè, speriamo bene. Ma qualche cosa a farsene. Pisanti mi roba, mamma mia. Sì. Lavoro, non è carrendi blocchetti. Ho fatto 40 anni io di travaglio. Cosa vuoi sia? Non lo so, ero un dio, ero al lavoro. Poi ho iniziato a perdere i colpi anche io, perché alla fine poi non ce la fai più. No, ho detto, speriamo che li possano travagliare, cioè che è meglio, volevo dire. È pesante non lavorare, perché cavolo, con tutte le cose che mi sono da pagare. E non so, Guglia, quando uno è giovane, è forte, cioè... Anche io, mi sento in forza, forti. Magari fra che anno comincio già a girarmi sì di yo-yo, perché è normale, già adesso sono quasi 20 anni che lavoro io, già un po' di anni a questa parte io qualche appena appena dica che cosa, non, però prima ero bifora di gabbo, ero. Appena appena ho calato appena appena. Per forza ce l'abbiamo chiaro quanto siamo persone umane, non è che siamo dei cani, no? Anch'io quando ero più giovane era a lavorare a testa bassa, poi ho iniziato a perdere i colpi. Dopo quelle ore non ce la facevo più, me ne volevo andare, però a volte rimanevo perché ce la necessitava. E così i discorsi sono quelli, c'è niente da fare. Allora, finito il primo tempo, 1-0 per l'Atalanta, la mazza del Nivaria. Chiappa! Dopo che lo fanno un po' 2 anni, comincia a dire. Non è che mi sono un po' caricato a Gardua, che prima era troppo mancante, ero. Cioè, faceva delle cose allucinanti con le bombole, cioè. Ero troppo pura di gabbo. Adesso un pochettino mi sono un pochettino rilassato. Mi cazzo che prendevo le bombole e scaraventavo in aria, amico, come niente. Cioè, ma una puzza, cazzo, micidiale. Poi ho incominciato dalla volta che ho preso quella da 62 piena, tutta potente, ce l'ho caricata sul camion e mi ha fatto male la schiena. Da lì ho incominciato a un pochettino a mettere su una mano. Perché poi dai un freno, anche io ero così, ci facevamo le frange intere al volo, no, poi alla fine non ce la fai più, capito? Basta con i giudici, basta con i giudici. La gente va a pigliarmi la bottacena e una sigaretta, mi apro la finestra, tanto è finito il primo tempo. Ehi, a cappa, voglio vedere a tanti 120 kg, 130 kg da terra, a tutta potenza. Adesso un pochettino sono più limitato, cioè già non vuoto ne altro su macchini, ma molto di meno. Ok, vai, vai. La fava, la fava, Cosa fai? La fava nell'orecchio, vai. No, ciao, tu cazzo, un grogu moscio. Un grogu moscio, vai. Padova. Padova di città. Cazzo, tutto è Padova. Cosa è? Tutto è Padova. Addirittura. Davvero. È a Padova, oggi. Un poco d'anni fa. Avevo guardato una moto in Chiva, in via... Paolo in Chievi, non via Paolo, via Paolo, la sa via la rete, via Masala. Cazzo, andiamo a regare i bomboli con Babbo, a quel periodo veniva anche Babbo, due bomboli a 25, cazzo andiamo nella moto e io ci ho appigliato e la capendo per la mano e le puccendo la moto, perché era mezzo aperta. Cazzo, io cazzo gli lancio la bombola. Dopo i cazzo, ne c'è un casino. Vabbè, se ti viene a pure non è la peggio. Dopo c'è poi sicuro un tesserino a fare un macco. Io gioco, ma non è che ti dà cosa di duca la moto, no? Lo so, fai ragione. Vabbè. Via. Casino. Un casino. E che è per il vella? Per il vella. Gli ho lanciato una bombola, gli ho lanciato, e allora ero più incazzoso, più mancante più mancante che mai. Ma fuori gabba vero, non me la fottia nulla. Pure io sono stato fuori di testa, ci ho fatto una calmata, ho fatto un po' di danni, un ragazzino io, cazzo, ne ho fatto danni. Danni. Tu pensa che c'era un amico, ex amico là, veramente un mio amico questo qua, proprio un amico nato insieme praticamente, cresciuti insieme. E dopo va sempre i coglioni, capito? Non ricordo come se fosse oggi. Ha giocato una tavola, prima di giorno aveva giocato all'anchi. A me si dà prima che cade un lugazzo. Mi sto per volerlo bene, mi. Sì, ne ha giocato di meglio. Ne ha giocato. Con Giulia. Un giorno uno era finito in barugura a mamma, l'ha giù bisseguito con tutto piatto a volte, con un roccio, l'ha giù bisseguito, ha giù pigliato un mosso di roccio, cazzo gli ho tirato a schiena, dopo veniva bene, che ci corrente, ha pepino cazzo decido da rodurone, decido, un asusa che ha pigliato, no, non deve pigliare la barugura a mamma. Una cosa più buffa, una volta ho giubilato, era la monta che mi aveva rotto le scarpe, e ho giubilato una chiave di ruota, ho dimontato la ruota, da voi, cioè gli ho lasciato tutti i bulloni staccati. Ma poi si è passato un'ora, un'ora e mezza, è andato a pigliare la macchina e farà dalla macchina. Per il vela. Cambia! Se riscendi. La grande musica di DJ Antonio Cappa. Antonio DJ per il vela. dice, cazzo, tu dai come è volato la mano, l'S10, quello mai c'è il vetro di protezione, ma tu un volo dietro il mobile, ma mai c'è anche il cavo dell'antenna che è praticamente è, diciamo, dietro, là, verso il basso, e è attaccato lì, ma ha schiacciato il vetro, poi aspetta. Dovevo consegnare un telefono stamattina, andavo dentro questa bustina, no? Di protezione, quella bustina con le bolle, no? E c'era anche il pezzo sopra, il pezzo del ricambio, quello rotto. Cazzo, se non mi fa la faccia altera col telefono qui su, io avevo cambiato il display, cito no, di sotto, secondo me non si è rotto qua, che culo, cazzo. Quindi non è andata male, è andata bene. Ho detto, ma come mai noi venerdì 17 oggi? È giovedì. Giornata no. Io stesso ho avuto una giornata di merda oggi, lascia perdere. Sto con i casini, Anna, il cane, che hanno stato bene, qui, là, a destra, a sinistra, cazzo, non esce più dai casini, per carità. Lo so, ne abbiamo visto tanto. Ho visto. Vabbè. Era da sì. No, bello di più, cazzo, si era andato di sotto. Avevo fatto lo stesso qualche anno fa, cioè, mi ha fatto ragazza, mi ha fatto il telefono. Era un telefono che aveva problemi di cose. Come si chiama? Aveva problemi di ricarica. Vabbè, glielo sistemo tutto quanto. A casa, cazzo, mi vale l'intera si fa calovetto. Come è arrivata la tipa, passa così. E non è 35 euro per il connettore, no? Mi ha detto, guarda, se vuoi io ti ho display il vetro nuovo, display, perché era vetro display, no? Completi. No, facciamo così, non mi dai niente, ma lo tengo così. Cazzo, e faccio un bel subunchino. Un po' casinato. Mi hanno domandato una foto della discoteca, Antonio. La vedi bella. No, oh, hanno domandato questo. Che sono cose che faccio in occhi. Che cosa? Chi si sta giù quattro punti a rimane? Che c'è bella mia, tagliare un cascio lui. Allora, fa, che tagliare un cascio. Ma che? Ma chi ce l'hai fatto vedere a me? Come cagare un cazzo la prima contro Magnoli, là. E lui, sai cosa ha ragione. Però è bella. E se sono bella, io ci sono per un cascio. Non va a tagliare un bene, chi c'è proprio una lametta, Lo so, io ne ho una, ma di solito la uso per tagliare, quando prendo le pezze di formaggio le uso per quello. Vabbè, non idrata ciò che fa anche d'uno. Rientrata dalla Serie B, 2-0, ha vinto contro lo Sassuolo, in Coppa Italia. E questa incontra la Juventus adesso. Vedi? Juventus e Spalla, cioè la prossima, ai quarti di finale. Ma dimmi Duca, è allucinante che ti squadra di merda. Grazie mille, sono giovane e buoni. Dove c'è due cacciaviti? Come ti due cacciaviti? Non sono senza occhiali, non vedo la lama. Sì, bella. Sono due belli felli, Giocla. Me l'ha mandata Luca, bella, sì. Belle cose. Ma se sta a casa, tu dici. Che è meglio, si sa mai. Luca te l'ha mandata. Luca me l'ha mandata. L'idrato in casa a tagliare un cascio, siccome tagliano bene, io uso per quello. E chi c'è un coso, Gianto? Un chicchi di bedivella, lo sai? Che cosa? Su coso che va, lo sai? Un chicchi di bedivella, lo sai? Un manganello, Manganello? Hai visto, usci? Allungabile. Telescopico, qui c'è del buone mosciacca, apri. Qui c'è un'arma. Se mi ricordi a un a capo, cazzo, c'è i bidetti. Ma ci mai la bicchiera da mia, Mi non vedrai così longa. No, così longa no, ma quasi, da. E non mi c'è niente, però. Allora, è meglio forniciata. È vero. Cazzo, ci mettiamo a trovo il dentista. Si vuole tornare al dentista, ma l'hai chiamato, Luca. Visto che ho preventiva, adesso la manca. L'ultimo, io non l'ho fatto, è buono il prezzo, Però, è un caso. casino perché non fa. Cioè alla fine ti devono combaciare, ho detto che sto buonevo sto bucari. No, ma adesso non ti puoi manco spostarmi da comune a comune. Ormai hai la tua ragione, ma dal 16 non ci possiamo spostare da comune a comune. A meno che non sia un comune di 5.000 abitanti nell'arco di 30 km, ma non si può andare a Cagliari. Mi fanno il foglio, sì, là. Possiamo andare a fare questa cosa, sì. Non so, sto facendo l'aria. Sto facendo l'aria, Gai e Gui. Ci sto dando un telefono. Mamma mia, sono stanco, che ho camminato un bel. Tutta la pista mi sono fatta, fare commissioni, qua e là. Sono veramente stanco. Ho fatto due volte vegata e retta, sale e scende, poi ho giocato e poi ho fatto tutto il Sassari il Vecchio, Piazza Castello, tutta a Peotas. No, io sono stato in caffè qua alla piazzetta, la calle, stamattina. Poi sono tornato, ho preso il cane, mi sono fatto una passeggiatina e poi niente, e poi a domo. Fumo da una caccia, fanno pulizia, fanno guido, fanno guidato, preparato il pranzo, adesso domani già c'è l'aria domani mattina, capito? Che va alle due ore 6, una mattina c'è la lotta con Simone, e lì va dalle 2 alle 6 con Enzo, è un casino, vabbè, vediamo un po' là. Vabbè, Anna ancora così, è già stata. Sì, ingessata. Ho tolto il punto, la fasciatura, tutto, c'è il cerotto, sto facendo la terapia a casa, crema e cremine, ma non ficchi ancora, casino è lui. Ci passerà tutto questo mese ancora. Purtroppo un casino, un casino. Ci vuole riabilitazione lì, non è una cosa facile, no. Adesso andrà al policlinico, adesso ci ha visto al 19 mi pare, poi andrà al policlinico, vediamo se fanno riabilitazione, qualcosa, un colpo pericolo, ecco che è tutto perfettamente riuscito, è tutto ok. Mi poco fa ho sentito a Tonino, mi ha chiamato, sono a Piacenza, già in albergo. C'è nato tutto, ma ora è già dormito, figurati. Adesso domani mi sembra che fanno i prelievi, tampone, sangue, urine, tutta la roba, e poi lunedì li operano. Meno male, dai. Se ci vuole questa operazione bisogna farla. Tanto da qui c'è più mare, mi sei, poi vai a rischiare che non cammini più. Se lo vuole fatto e basta. E poi devono rientrare in aereo dopo, su tutte e due con le stampelle. C'hanno poco tempo, ma posso rimanere lì, devono rientrare per forza. La riabilitazione, tutte le cose devono farla qua, quindi speriamo che vada tutto bene. Vabbè, adesso fammi sapere. Io sono qua, se avete bisogno, quando rientrate, chiamami, tanto fanno Pisa Alghero. Non si spostano dall'aria del Cagliari, sempre in Chiviso crescendo, ma torna. Auto Guglia, Canibiso. Stai guardando lui, Atalanta Cagliari. Ciao, vedi, andi è su Rai 2. Rai 2. Io pensavo che era di Cuccardi. No, ma come andava la partita, Vascini? Cioè, Atalanta Cagliari sta perdendo il Cagliari 1-0. Siamo qua e ogni sera ci facciamo due chiacchiere io, Antonio, Luca, tanto siamo tre a casa. Ciao Antonio, ciao Luca, allora. Oi, ciao Massimiliano, buonasera. Fiaco di va. Beh, Massimiliano. No, non ha giù il fiaco di va. Ah, tu ci bravi voi, Massimiliano. Fiaco di va, ragazzi, di Nughetto. Ma io sono salito la verità, guardavo un po' di televisione su, perché giù stavo studiando, La direttrice di passaggio, vorrei, ce l'ho anche tu. Studiando, non stai studiando? No, non io, mia figlia. Ah, e non niente come sempre la sera, dai. Vabbè, io giù ho fatto due fischi e ma non venisci uno, credo, non v'è. Se no te si sa già cuccato, vabbè, cuccato, in soggiorno, ora non c'è la TV, Antonio, idem. E poi quando sono arrivato qua, sono arrivato alle 9:30 a casa. Oh, ci sono baracchini, ho fatto due fischi, mi ha risposto Antonio. E poi è stato Claudio. Ma ci siamo sempre, dai, io la sento sempre. Ehi, ehi, a buona sapere, si va. E lui ha mai denti, so, come? Ma sai io, vai su internet, ha mai il dito. Ha sentito che era io, lo c'era il gatto internet. Boh, un pazzo furioso sei tu, No, ma chi è qua? Oh, Massimiliano. Sono partito di Coppa Italia, entro qui, che bacio a denti. Roba di delle novelle, sempre. Allora, ma entro qua, ma guardo qua. Ieri era Rai 1, e oggi è Rai 2, c'è Atalanta, domani mi pare che ce n'è un'altra. Vabbè. Vediamo un bocchetto. E tu, quindi, domani non lavori lo stesso? Ma lo intendi? È andato a scaldarsi anche João Pedro. No, non lavoro, Claudio. Sono proprio lunedì, però domani ha messo un po' di acqua. Ma sto dicendo, domani c'è temporale fuori, domani c'è un raffica di vento di mezz'ora, ma forti, la temperatura è molto bassa, pioggia, stiamo facendo le lavatrici, vado a gaggia con i tendini, drento, non ci può andare avanti così, mica, ma come mai non cambia tutto il tempo? Speriamo, speriamo, io sono la prima di Natale, fermo. Vabbè, lì per te è normale, perché se il tempo è brutto, come ha fatto a lavorare, può essere anche pericoloso, no? Per i cingoli, queste cose. Sì, non è partito dai cingoli, il problema è che i camion devono entrare dentro i varchi a portare il materiale, quindi è un problema grande, capito? Tolgono tutto, diciamo, il fango fuori dalla strada, quindi è un casino per l'ana, se è quant'altro. Capra capra, anda bene, non ho neanche c'è un messaggio, aspetta che me lo ascolto. Gaffa, ma lo sto guardando da internet, dal telefonino, sono problemi. Perché c'ho la rascello anche lì, capito? Entra dalla finestra, cioè vabbè nel muro, dai, faccio il buco nel muro. Perché questo cavo grosso, essendo corto, mi impenna le rosme, però cazzo è brutto. Se lo metto fine, col barilotto c'è la biglia di luci. Di dove ti arriva il cavo grosso, le fai un pezzo di barilotto a un metro, a 50 centimetri, a 20 centimetri, rimbora un barilotto e lo collegheggi, non rimate nulla, no? Cosa pensi che le faccio? Non fa niente lui. Infatti farò così, Cla. Faccio così. Perché il cavo quello grosso, quando c'è roba pesante va bene, ma quando è roba leggera, tipo rosma, te lo capotta. Sì, già lo so, te lo punta, te lo mette in alto, è brutto. È brutto. Ma io interno ho messo, vabbè, c'avevo strettone lungo, ho messo il 213 che fa i baracchini, ma la roba interna, capito? Bisogna a dire che però quando c'è strumenti così non fa, sennò è un casino. Cos'hai detto, Massimiliano? Ehi, Acla, scusa, mi stavo rispondendo a un messaggio che mi hanno inviato. Ehi, vai, entro. Chiappa. La mazza che ti è varia. In quel caso. Ti sto guardando la cosa, la... Questa è già partita. Che sciuga. Però il portiere del Cagliari già è forte. Sì, no, non ci sta parlando bene. Lì alla salvezza, lì non si sa neanche se si salva, boh. E ancora c'è da giocare. E appunto bagliissimo, ma ancora viene un bella partita che deve perdere. Guardate le bici. Regalo Cagliari, cazzo, ci ho messo in barra a Torres. Devi un gambe. Ah, ma che sarà l'allenatore, che è un picchio, guarda. Vabbè, anche i giocatori già contano, non tu. In campo ci vanno i giocatori, non l'allenatore. Però anche l'allenatore conta. Cazzo, io sono tutta la sera senza linea internet a casa. Vabbè, sto usando quella del telefono, però... fibra, caput, è successo un casino qua vicino a casa, mi è sceso un cavo elettrico in terra, ha fatto un casino vero. Per carità, è a conta, non è a tutti nuda. No, stanno aggiustando, però ci vuole tempo, hanno staccato tutta la corrente a tutto il quartiere. Ormai noi siamo un'altra linea, ma sotto un correale non c'è nessuno, c'è la corrente, capito? Perché non sistemano questo cavo. Ci sono 4-5 squadre, tu, e con i fari, sono passato prima delle 8 e mezza. Lo so a Cunzende, gappa. Avanti, Lugarie. Spareggiato, ha visto. Cosa tu? Ha segnato il Cagliari. Ha segnato, bella! Dico, bello, porca fa, stava camellando, ma camellando, giocatore del Cagliari. Non l'ha fatto a pigliare Luis, cazzo, proprio gliel'ha tirato all'angolo della porta, non l'ha preso. È un bel diagonale, è bravo quel giocatore, e questo è della seconda squadra, amici, se lo gioca. Però sono turnover, però questi ragazzi, anche ieri, alla Juventus, all'Inter lo stesso, al Napoli, hanno segnato tutti quelli a seconda squadra. Il terzo gol dell'Inter, perché era 2-2, praticamente era già finito, è entrato Lukaku e ha segnato. Come se non entrava Ronaldo, andava a rigore da Juventus, lo stesso. Tutti stanno vincendo ai tempi supplementari in Coppa, perché sono ragazzini e non ce la fanno, vabbè, guarda mi ha cavalcato, vabbè, ciuppa, vabbè, usci mi ha diagonale, bello, e via, riprendi a tu. Molto bello quel gol, cazzo, ma ha pintato una buona fatta all'entrata, ma dopo vuoi già con Tavrento, e sciuga. E via, la ceglia, poi domani mattina ci aggiorniamo, dai. Ci aggiorniamo, se no non c'è tempo di merda, perché ha dato tempo un po' brutto domani, soprattutto vento, un po' capito. Non ci vale bene da giudizio, ci muisci a lungo, la rottura di palle. Avanti, ma ci vediamo. Lo so, Cla, è tempo un po' brutto, sì. Io stasera ero al ghiero, che stavo finendo quella veranda di babbo, gli ho messo tutta la schiuma, poverettano e bimbumba. Sono andati alle 3, alle 5 e mezza arrivavamo qua, siamo riusciti a finire del tutto. Bella, bel lavoro avete fatto. Sì, giurata, laggiù, laggiù, e il babbo non può fare più nulla. Sono andato all'abbraccio, e il babbo è a 8. Cazzo, bravo, quando ci vede i travaglieri, li siete sempre i controllenti. Quello è vero. Allora stavamo facendo la moglie a casa tua, aveva un giove tra le mamma e bene. E allora che so? Il padre di Massimiliano. Dietro dei lavori, così è. Direttore tecnico, Antu. Che tempo che pignolo mi Antu. Mamma mia, preciso come uomo. È piccoletto, ma deve essere tosto. Ti chiedi tutto un pezzo, insomma. Già si vede. Ascolta, Di Antonio come sta? Bene? Sì, Di Antonio sta bene, è andato in pensione, tranquillo. Stamattina lavavo da lui, stavamo con un paio di birrette. E Daniela le stava facendo le mail nuove con il telefono, c'è proprio il telefono nuovo, no? Quindi io lo stava tutto cambiando i numeri da uno all'altro, capito? Stavano lì un'oretta, un'ora e mezza. Gappa, ascolta, ma era sotto impresa? Sì, era sotto impresa. No, vabbè, lui ha fatto più di 35 anni a conto suo. Poi si è messo qualche anno così sotto impresa e poi si è andato in pensione. Ha fatto bene. È un bravo muratore. L'ho visto lavorare io, bravo muratore. Poi ha saltato su, va. Sempre lavorato qua, quindi. Ha fatto sempre quel tipo di lavoro. Vabbè. Avanti, Luca. Ehi, cioè, il direttore del Napoli, tuo padre Massimiliano, quanti anni ha? 83. Grandetto. Grandicello, che se vuoi fare Massimiliano. Figlio unico, sì. Chi io? No, io non sono figlio unico. Io ho una sorella più grande di me che vive a Valghero. e poi avevo un altro fratello più grande di tutti, capito? Stavamo in 5, stavamo in 3. Ah, ho capito, vabbè, purtroppo anche loro stanno lì a controllare. Non può tenere i fratelli se non può fare un babbo. No, ma è una cosa buona anche perché lui è molto pignolo, mi capito, io sono un po' di meno. Però lui è la puntina, lui. Ma non vuole che sia così a volte. Ho ragioniato l'Atalanta. Mazza che te ne varia. Va bene, va, signor, tacco io, vado a guardarmi un po' di TV. Ok? Magari ci aggiorniamo domani. Buonanotte a tutti e ci sentiamo le prossime ore. Qua ci aggiorniamo molto zappalo, ok? Ehi, anch'io chiudo, dai. Ma non vado là a Marcialone a guardarmi, ma c'è ovviamente DJ con questo televisore, che è molto più piccolo dell'altro, me l'hanno fatti gli occhi. Beh ragazzi, vi saluto, un abbraccio, ciao Luca, ciao Antonio, ciao Massimo, saluto a casa, già ci aggiorniamo domani mattina, dai. Per quello che ci siamo detti già va bene, già. Okay. Ciao a tutti, buonanotte, a domani, ciao ciao. Ciao ciao, buonanotte. Sì, là, ciao Cla, ciao Massimiliano, là. Abbassa il rubo lui che mi sono sarrendo i dolci. Sono stanco. Poi domani ho roba da fare. Devo controllare delle cose. Devo essere lucido, altrimenti non importa. Là, ciao a tu, anche a te, ci sentiamo domani. Buonanotte a tutti e a chi, anche a chi sta ascoltando, ciao. Luca, che arriva l'acqua, lo sai? L'acqua arriva, sai, alle 5. Io sono a mezzanotte. Io sono alle 5, non lo so tanto. Non lo saccio. Quando arrivi. Già mi da quella cosa a Martino io. Allora, mangaglio la bollicina. La bollicina invece. Allora. Vabbè, dai, ci sentiamo domani, Antu. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte.